versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi 38 secondi, quindi in diretta agli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto della versione di Oscar in diretta o in podcast, e vado subito all'argomento del giorno. Stiamo sulla vicenda delle banche. No, non parliamo, lo avete già sentito, immagino, qualche giornale radio o telegiornale, del voto sulla sfiducia al ministro Boschi. Francamente mi interessa abbastanza meno la politica rispetto al nocciolo della faccenda, di quante migliaia di persone ci hanno rimesso nelle quattro banche e di quante si sentono oggi a rischio nell'intero sistema bancario italiano. E quindi la trasmissione di oggi è dedicata a un'altra delle banche a rischio nel nostro sistema per tanti anni, descritto dai regolatori della politica, come sapete, come il più solido al mondo. Anche stamattina Renzi, in un consiglio europeo in cui lo vedrete sui giornali domani, ha molto, tra virgolette, un po' cambiato la posizione politica italiana, ha deliberatamente accentuato fortemente tutti i motivi della critica verso la Germania, ha sollevato una polemica, secondo me giusta, dirò la verità, questa molto giusta secondo me, sul fatto che hanno detto no al South Stream, l'oleodotto, il gasdotto che da Baku attraverso la Turchia e poi sotto il Mediterraneo, Balcani, sotto il Mediterraneo, doveva arrivare all'Italia, mentre invece la Germania si proponeva di dire sì al raddoppio del Nord Stream, che naturalmente la Russia va a lei. E devo dire, su questo nel Consiglio europeo ha animato un bel casino, perché si è portato dietro la maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, che hanno imposto una ridiscussione alla Commissione europea invece del sì che voleva la Germania. Ma insomma, ha anche detto, tra le tante altre cose, ribadendo di aver detto alla cancelliera tedesca che non possono dire che loro danno il sangue all'Europa, perché questo manca di rispetto a tutti gli altri membri, polemizzando durissimamente contro il fatto che le quote di redistribuzione degli immigrati non funzionano, e poi a un certo punto ha detto che il nostro sistema bancario è più solido di quello tedesco. Ecco, io su questo ho i miei dubbi, a dire la verità. Loro hanno usato 247 miliardi di aiuti pubblici quando nella prima fase del post 2008 tutti i paesi europei, ciascuno interveniva sulle proprie banche a modo suo, e quindi con i soldi pubblici. Noi non lo abbiamo fatto, ma siamo in ritardo con un sistema bancario affannoso e affannato nei problemi accumulati. Allora, di quale altra banca a rischio parliamo oggi? E quindi, se siete suoi azionisti o se siete interessati alla vicenda di questa banca, chiamate l'800240024 per intervenire. Parliamo di Veneto Bank. Veneto Bank è una delle grandi popolari interessate dalla riforma del gennaio scorso per decreto legge del governo, che quindi sono state tra virgolette obbligate a modificare la propria natura giuridica, dalla forma di banca popolare quindi alla forma di SPA. E domani si tiene un'assemblea molto importante per Veneto Bank. Veneto Bank nel frattempo, quindi il suo titolo era un titolo non quotato, era di quelli come avviene in molte popolari, a valore di libero, quindi stabilito dal CDA, ratificato dall'assemblea, è già caduto in questo anno a seguito delle ispezioni di vigilanza, delle perdite accumulate dalla banca, che ha cambiato il management, non c'è più Vincenzo Consolo e così via. E già sceso di valore, anche se, ripeto, non è un valore di mercato, da 39,5 euro a poco più di 7, perché il diritto di recesso è stato firmato, è stato stabilito a poco più di 7 lo scorso 3 dicembre. Naturalmente è un valore puramente teorico, perché non è un valore su cui attualmente chi detiene quei titoli se ne può liberare incassando quel valore. Quindi stiamo parlando di tutti gli azionisti bloccati con una perdita che allo stato attuale è pressoché totale. Dico allo stato attuale perché? Perché all'assemblea di domani ci sono tre decisioni da prendere molto importanti. Queste tre decisioni molto importanti sono, tra virgolette, imposte, diciamo così, alla banca dal sistema di vigilanza europeo, sotto cui, essendo una banca che rientrava tra le maggiori italiane, è sottoposta Veneto Bank, che sono state anche formalizzate in una lettera formale agli organi della banca dello scorso 9 dicembre. E quindi all'assemblea di domani i soci, quelli che intanto ci stanno rimettendo quasi tutto, gli azionisti sono chiamati a votare su tre questioni fondamentali. La prima è appunto la ratifica della trasformazione in SPA, la seconda un aumento di capitale da 1 miliardo da fare partire subito dall'inizio dell'anno prossimo, cioè tra pochi giorni, e poi la terza cosa, oltre all'aumento di capitale, è l'idea che ci debba essere, bisogna rendersi disponibili rapidissimamente a una fusione in tempi rapidissimi, per così dire, nella speranza quindi che con la quotazione in borsa il titolo possa un po' riprendersi, perché qualcuno in vista della fusione entra nel capitale e faccia salire i corsi della banca. Naturalmente a questa decisione di domani i soci arrivano comprensibilmente molto ma molto preoccupati, perché come è ovvio e come è scritto formalmente ai vertici della banca, qualora non fossero adottate queste decisioni la banca non ha alternativa a finire in amministrazione controllata, che a quel punto sarebbe solo l'anticamera della risoluzione, esattamente come quella adottata dei quattro istituti. Anzi, a quel punto, poiché la risoluzione arriverebbe dopo il 1 gennaio, in piena applicazione di vigenza della nuova direttiva europea BRRD, cioè quella del bail-in, e quindi non solo gli azionisti rischierebbero, ma rischierebbero gli obbligazionisti subordinati, e a seconda dell'entità dell'intervento potrebbero rischiare anche i depositanti, come sapete, sopra i 100.000 euro. Si tratta quindi adesso in questo sistema, che è il più sano del mondo, di correre come disperati dalla decisione formale da prendere domani in assemblea, sperando che vadano bene queste tre circostanze, che si trovi qualcuno che a quel punto, forte nel dettare le condizioni, decida rapidamente di assumersi sulle sue spalle il Veneto Banca. In una condizione analoga si troverà in realtà anche la Popolare di Vicenza, quindi questi due istituti bancari in Veneto hanno migliaia di azionisti. Stiamo parlando di un tessuto in cui gli azionisti sono fortissimamente rappresentati da piccoli imprenditori, quindi qui non è una crisi solo di risparmiatori individuali, perché appesi al futuro di queste due istituzioni bancarie c'è un reticolo di migliaia e migliaia di piccole imprese, quindi dipendenti e così via. Un problema rilevante, che è uno dei tre grandi problemi rilevanti che sono sullo sfondo, perché oltre a queste due banche c'è il problema di MPS totalmente irrisolto, anche quello non se la compra nessuno. Vedrete che dopo il 31 dicembre, quando il tesoro doveva liberarsi del 4% che ha, non se ne libererà, se lo terrà, e il problema è vedere chi se la prende, visto che c'è ancora 45 miliardi di crediti deteriorati sommando sofferenze e incagli, con un capitale, con una patrimonializzazione oggi in borsa di 3 miliardi e qualche cosa, 6 miliardi di subordinate in pancia. Secondo problema. Il terzo problema è poi quello delle 374 banche cooperative, delle BCC, con 1.200.000 soci, dei quali anche oggi le loro quote, perché nelle BCC si chiamano quote, non azioni, hanno un valore attualmente indefinibile, perché non se ne, per quello che è successo e per il terrore che c'è in giro, chi è azionista e ha una quota oggi della BCC non trova nessuno a cui cederla al valore di libro. Ecco, questa è la condizione nella quale siamo oggi, e io, ma non parliamo di questo oggi, penso che la responsabilità sia dei regolatori, della Banca d'Italia e della Consob, che hanno secondo me commesso un errore tragico in questi anni, credendo di poter tenere tutto a bollire dal loro punto di vista aspettativa, che poi ci sarebbe stata una grande bad bank all'italiana, e quindi era possibile uscirne cedendo i crediti deteriorati di tutte queste banche senza passare per le risoluzioni e le liquidazioni, cioè senza farci perdere nessuno. È una illusione che si è rivelata totalmente infondata. In base a questo è stato detto agli azionisti di Veneto Banca, come di tutte le altre, ma non vi preoccupate, è stato detto agli obbligazionisti, ma non vi preoccupate, è stato detto ai correntisti, ma non vi preoccupate. Peccato che la storia stia andando diversamente. Allora, per capire meglio domani che cosa può avvenire in assemblea, abbiamo chiamato oggi il presidente dell'associazione azionisti, appunto, di Veneto Banca, Giovanni Schiavon. Buon pomeriggio, Schiavon. Buon pomeriggio agli ascoltatori, buon pomeriggio a lei, Giannino. Si ritrova nella sintesi che ho fatto? Secondo lei ci sono degli errori e delle cose da precisare? No, ci sono molte cose popolare. Sì. La riforma delle banche popolari è stata una riforma attuata con un decreto legge. Sì. Cioè una riforma, e io credo, io ho fatto il magistrato per una vita, a me pare veramente un assurdo adottare una riforma che cambia radicalmente il modo di far banca con un decreto legge. Sì. Per di più, io vorrei sottolineare un aspetto che io trovo essere inquietante. Dopo gli stress test, mi riferisco a novembre 2014, tutto il panorama economico, ma anche il governatore Visco aveva detto il sistema bancario è solido. Sì. E tutti hanno creduto a questo. Nonostante questo, dopo 15 giorni se ne sono usciti con un decreto legge. Allora io credo che già c'è stato un inganno da parte, io penso un po' del mondo politico, della politica, perché, ed è per questo che la gente non riesce attenzione Schiavone, i dati delle banche, quelli patrimoniali, come le cose della vigilanza, sì, con l'attenzione della Consob, ce l'hanno i regolatori prima che la politica, cioè la Banca d'Italia e la Consob, secondo me hanno più responsabilità loro. Beh, sì, certo, io ho un po' sintetizzato. C'è una graduatoria, sì, di grandi responsabilità. È una graduatoria, ha ragione. Ecco, e quindi bisogna che, e quindi questo per spiegare la ragione per la quale gli azionisti si sono trovati ingabbiati in una trappola dalla quale non sono più capaci di uscire. E noti, io vorrei sottolineare un concetto per completare, se lei mi consente. Certo, e l'abbiamo chiamata apposta. E cioè questo. Le banche popolari, per come erano regolate prima e attualmente ancora, sono banche che inducevano il risparmiatore a comprare azioni, ma non avendo la percezione di comprare prodotti di rischio. Perché? Perché le banche popolari, proprio per il loro, la caratteristica fondamentale del voto capitario, era una banca che allontanava gli speculatori e quindi gli investitori, e favoriva il risparmio delle famiglie. E per 100 anni queste banche sono state considerate come i salvadanai delle famiglie. È per questo che io ritengo che averne cambiato la struttura in questo modo, un decreto legge, se mi permette, sia irresponsabile. Ecco. Però, Presidente, io che invece ho detto, anch'io il decreto legge l'ho considerato da subito, ci sono le trasmissioni, gli articoli che ho scritto, uno strumento inappropriato per intervenire. Sì, l'ho visto. Però detto questo, accumulare 3 miliardi di perdite, 2 miliardi, perdonate, quasi 2 miliardi, anzi, negli ultimi 3 anni, era un bel campanello di allarme. Io è su questo che ce l'ho con i regolatori della Banca d'Italia, perché secondo me era necessario fare capire agli azionisti innanzitutto, cioè a voi, a quelli che li rappresentano, nel tempo, che prima del decreto legge di gennaio convertito poi a marzo, che insomma era necessario prendere un'altra strada, esatto. E questo il regolatore aveva tutti gli strumenti per farlo, la Banca d'Italia, nei confronti del management della banca, del consiglio di amministrazione e così via. Capisco invece che a prendere improvvisamente da un decreto legge, oh mio Dio, dobbiamo mutare natura giuridica, dobbiamo quotarci e fonderci, e poi nei mesi accettare l'idea che il valore del titolo praticamente cade, quel 7,3 di recesso, me lo conferma anche lei, attualmente vale come zero. E se non si fa tutto questo adesso, e se qualcuno poi non ci compra, noi andiamo a perdere il tutto del tutto, ancora di più di quello che abbiamo perso oggi. Beh, certo, questa è una maniera, secondo me, che autorizza gli azionisti, gli obbligazionisti, i correntisti, tutti gli affidatari a dire: oh, ma il regolatore, ma non ho capito, tu segui minuto per minuto le cifre di una banca, fai le ispezioni, mandi, abbiamo appreso che c'è una lunga corrispondenza di lettere riservate che non conosciamo tra la Banca d'Italia e ciascuno di questi istituti, piffero, ma a noi qualcuno quando è che ci diceva qualcosa? Ho torto? No, assolutamente. E allora io vorrei anche ricordare che nel 2014 è stato fatto, proprio nella prospettiva degli stress test, è stato fatto un aumento di capitale di 450 milioni per 450 milioni a 36 euro, cioè praticamente a un prezzo sono stati rastrellati altri, esatto, 10.000 nuovi azionisti, i quali poverazzi hanno versato le loro pensioni, i loro del TFR e hanno e tutti i loro risparmi. Ora fare un aumento di capitale nell'estate 2014 a 36 euro, dopodiché gli stress test, grande vittoria, abbiamo superato lo scoglio dello stress test, e dopo 15 giorni si trasforma con un decreto legge la banca la riforma delle banche in questo modo, io credo che gli azionisti siano disorientati e in questo senso si parlino di risparmio tradito, perché è ovvio, non è stato dato agli azionisti il tempo di uscire. Allora, esatto, non gli è stato dato perché, spieghiamolo a chi è a casa che magari non si trova così facilmente a capire, se voi avete in mano un titolo in cui avete creduto, non solo avete creduto perché avete pensato che far parte del capitale di rischio, le azioni sono capitale di rischio, in una banca come quella non rischiava molto, anche perché il regolatore sembrava dire ma no, basta un aumento di capitale, si supera lo stress test europeo e si va avanti. Ma quando vi trovate poi improvvisamente con un titolo che a quel punto non è trattato sul mercato, e le cui prospettive sono di scendere ulteriormente così drasticamente, è chiaro che voi non ne potete più uscire. E prima vi hanno detto una cosa che si rivela totalmente diversa, ma non dalle valutazioni del regolatore, perché è il regolatore che ha detto a un certo punto mo si cambia tutto, quindi lui lo sapeva perfettamente quando autorizzava in questo caso l'aumento di capitale pochi mesi prima Veneto Banca, come in tutti gli altri casi delle quattro banche che sono finite in risoluzione, ha autorizzato aumenti di capitale o emissioni di subordinate poco prima di quello che poi è successo. Ecco, questo è il mio grande interrogativo, che ai miei occhi pesa, perché siccome stiamo parlando di migliaia e migliaia, stiamo parlando del risparmio degli italiani, di migliaia e migliaia di piccoli imprenditori, risparmiatori, famiglie, questa roba ai miei occhi, devo dirvi la verità, ha un peso enormemente più rilevante del dibattito politico di stamattina alla Camera. Vedo che invece l'attenzione della politica sta soprattutto lì, posso anche capirlo, ma a me quello che preoccupa è quello che adesso succede nelle altre di banche, a cominciare dal voto di domani. Adesso abbiamo un minuto di informazione stradale e poi chiamano il presidente dell'associazione azionisti Veneto Banca, che è con noi. Domani a questo punto loro cosa votano, in cosa confidano, che cosa pensano che possa avvenire? Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:49 primi 32 secondi, e con noi Giovanni Schiavon, il presidente dell'associazione azionisti Veneto Banca. Domani assemblea con tre punti all'ordine del giorno pesanti come granito, perché si tratta di accettare ovviamente la cosa che era indicata dal decreto legge inizio anno, cioè la trasformazione in SPA, e si tratta di lanciare l'ennesimo aumento di capitale per 1 miliardo questa volta, dopo i 400 milioni di quello del 2014 che è risultato inutile, e quello di accettare la prospettiva di essere molto rapidamente nella prima metà dell'anno prossimo fondersi e essere aggregati a qualcuno. L'alternativa, amministrazione commissariale e risoluzione col bail-in. Questo è. Cosa voterete domani, Schiavon? Noi come associazione abbiamo consigliato di votare sì, perché siamo messi all'angolo, non ci sono alternative. Esatto. L'alternativa è il disastro. L'alternativa quindi è a perdere chiaramente tutti i risparmi e perdere pure la banca. Almeno io sono convinto, e veda, lei giustamente prima ha sottolineato 7.3, ma 7.3 è il valore del recesso che è stato determinato, che è un concetto diverso dal valore della azione. Esattamente. Allora, poiché io credo che sia assolutamente impossibile che una banca possa perdere l'81% in un anno, perché così sarebbe in un anno, l'81%, io credo che il valore del recesso sia stato determinato a ribasso, secondo me, per impedire la fuga degli azionisti, perché c'è questo pericolo, e quindi io credo che il valore fondamentale, il valore vero dell'azione sia superiore a 7,3. Io non voglio essere così pessimista, però votare sì significa scegliere l'unica strada che costituisce un'alternativa alla messa in liquidazione, quindi praticamente al fallimento della società. No, quindi noi voteremo responsabilmente sì su tutti questi tre punti, naturalmente però noi chiederemo, pretenderemo che la nostra associazione di avere un controllo continuo sui conti della banca, un controllo continuo anche sulle scelte gestionali della banca, cioè vogliamo che gli azionisti siano partecipi della gestione della banca del loro territorio. Io credo questo chiede, ma non facendo parte del consiglio di amministrazione, noi non vogliamo, noi vogliamo ruoli di sorveglianza. Allora, nella fattispecie, come si dice con linguaggio legalese, mi è capitato nel 2012 di fare una convention chiamata dal manager della banca, c'era una società di consulenza, era senza clienti, soci, eccetera, era il manager della banca di prima fila, e voci del bilancio alla mano, io contestai un po', dicendo: ma cosa diavolo state ancora comprando la Bis a Torino? Cosa diavolo prendete altri sportelli? Avete un cost income, cioè il peso dei costi fissi, quindi dipendenti, mattoni, agenzie e così via, rispetto al reddito generato dal patrimonio della banca, che era troppo alto, era stellare. Ho detto: ma guardate che secondo me ci sono degli errori profondi. Naturalmente il mio rapporto con la banca si gelò dopo quella convention, ohimè. Potrei dirne X di queste cose che sono capitate nelle banche che oggi sono in queste condizioni. Figuratevi se sono il modesto giornalistino che sono io rispetto alle cose che sanno i vigilanti e i regolatori. Io sono per dire le cose come stanno, innanzitutto ai manager delle banche riservatamente, e poi a un certo punto bisogna anche avvertire i clienti, gli azionisti, gli obbligazionisti, chi ci ha messo capitale e così via. Secondo me dalla trasparenza non esce fuori l'effetto di indebolire un sistema bancario, lo si rafforza, perché è il vero stimolo all'efficienza, la trasparenza degli attivi e delle passività di un conto intermediario bancario è una questione che essa è il fondamento della fiducia, non coprire la polvere sotto il tappeto per poi dare la colpa agli altri. Sentiamo come la pensa Enzo da Perugia. Enzo, prego. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo fare semplicemente un'annotazione sul modus operandi di questa banca, perché mi sono trovato a esserne protagonista poco più di un anno fa. Cosa è successo? Quando facevo dei sondaggi per stipulare un mutuo, sì. Mi sono rivolto fra gli altri istituti anche a Veneto Banca e mi sono sentito chiedere in cambio dell'erogazione del mutuo la sottoscrizione di 7.000 euro di azioni da parte del direttore della banca, con l'impegno ovviamente a non poterle cedere prima di 5 anni. Ora, Enzo, guardi, quello che le posso dire io è che noi abbiamo pile di carte di piccoli imprenditori che ci dicono che per rimanere affidati gli veniva imposto quote ben più alte, e questo non credo che lo sappiamo solo noi giornalisti, anche questo non lo sanno i regolatori, quindi io la ringrazio per avercelo segnalato. Credo che questa prassi fosse molto diffusa ed si è diffusa terribilmente dall'inizio del 2014 in poi, proprio perché le banche da lì dentro, i regolatori, sapevano che le cose erano molto più complicate di quanto poi non hanno detto, anche quando hanno lanciato e autorizzato l'aumento di capitale che ci ricordava Schiavon a metà del 2014. Sentiamo ancora Vito da Sondrio. Vito. Salve, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, volevo solo dire una cosa, che secondo me la principale colpa di tutto quello che sta accadendo, per me, è del singolo risparmiatore. Spiego perché. Sì. Allora, nel senso che bisognerebbe ormai, sia come individui che società, aver sviluppato degli anticorpi, cioè questo lo do ragione, per quanto riguarda determinate cose. Cioè io sicuramente verrò fregato da questo punto di vista. No, perché non è sicuro. Se lei diversifica e si ricorda che ogni emittente di un titolo proprio, come sono le azioni di una banca o le obbligazioni della stessa banca, è ovvio che è in conflitto di interesse, non sarà mai portato a dare piena simmetria di informazione. Questo dovrebbe essere fondamentale. Però io, siccome le do ragione in questo, che i regolatori coprano le situazioni reali è ancora più grave, a dire la verità. Va bene, allora io ringrazio innanzitutto Schiavon, vediamo come va l'assemblea domani. E ricordatevi che domani dalle 10 alle 12 noi torniamo a Conti della Belva con Carlo Alberto Cannavale Maffè, Renato Cifarelli, Mario Seminerio, a parlare proprio di questo con un orecchio attento a quell'assemblea e a parlare anche delle altre banche che sono sullo sfondo di questo sistema, che non è, ohimè, il più sano al mondo. A domani!